Starsene a pensare mentre crolla il mondo e tu stanco di aspettare. Fai passare i giorni con apatica follia, scordi i tuoi bisogni. Se c'è una cosa che ho imparato è che alta è l'infruttuosità di un tempo prolungato. E divago per giunta quando non dovrei. Non di rado mi accorgo di essere indietro, intanto il tempo corre via. E divago per giunta quando non dovrei. Non di rado mi accorgo di essere indietro, intanto il tempo corre via.